Secondo si sprecano un monte di parole, sarebbe meglio parlare meno, fare di più, grazie. Perché ce l'ha fatta? Stai dicendo che è incazzata. Poi ti scenderà